Cantieri di Carità e Giustizia. Siamo ancora dentro i Cantieri di Carità e Giustizia, il progetto voluto dal Vescovo Claudio. Abbiamo già presentato il quaderno numero 1, ma è già tempo del quaderno numero 2. Venerdì ci sarà la Via Crucis cittadina, partendo dalle 18 dal Duomo, arrivando poi alla Basilica del Santo. E proprio in questa occasione, dopo le 14 stazioni, vissute in maniera molto essenziale, al termine ci sarà la distribuzione di questo secondo fascicolo Cantieri di Carità e Giustizia. Saluto di nuovo, sono Francesca Fiorese dell'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro. Bentrovata. Bentrovati a te. Allora, il sottotitolo di questo quaderno 2 è diverso ovviamente dall'1, capacità e talenti a servizio della povertà, e mi pare la caratteristica principale di questo quaderno sia il fatto che c'è letteralmente una mappa della città di Padova. Esatto, c'è una mappa. Il quaderno non è il bilancio delle povertà, ma è il bilancio delle capacità e dei talenti a servizio della povertà. E il quaderno presenta appunto una mappa variegata di risorse che mostrano la natura solidale della nostra città. Come si costruisce la mappa? È costruita proprio con la disponibilità di oltre 70 realtà che operano nella nostra città e il lavoro prezioso della Fondazione Giancano, ovviamente. E in questo modo ci offre dei numeri significativi, numeri che hanno una valenza anche in termini economici. È una vera e propria ricchezza. Il capitale del volontariato, anche attraverso questa mappa abbiamo capito come va valorizzato e accompagnato nel servizio ai poveri, proprio per trasformare i beneficiari in donatori, e questa ricchezza possa arricchirsi sempre di più. La mappa mostra che il servizio di carità e giustizia non spetta solo a qualcuno, ma è uno spazio di responsabilità di tutta la comunità civile. Quindi promuovere la carità e la giustizia è proprio promuovere la socialità. Insomma, questa mappa ci dice che la ricchezza è abbondante e con i poveri va gestita sempre più e sempre meglio, proprio come era desiderio del nostro vescovo quando ha aperto questo cantiere. Ecco, il vescovo, il lavoro ce n'è e ce n'è per tutti. Il vescovo, proprio nel messaggio che apre questo quaderno, che poi venerdì sarà distribuito a tutti, il vescovo dice: questo, quello che emerge è un quadro che ha anche un forte impatto politico, nel senso più ampio del termine, non tanto perché a Padova si va a votare tra qualche settimana per la scelta del sindaco, questo cade forse in modo provvidenziale, però è quello che dicevi tu, cioè è un po' tutta la città, tutta la polis che deve partecipare a questo cantiere. Non può essere compito esclusivo di qualcuno e nessuno può arrogarsi il diritto di dire è spazio mio, e neppure nessuno può dire è spazio di altri. I poveri sono nostri e sono la nostra ricchezza quando ci interrogano sullo scoprire quanto c'è da lavorare per tutti. Sono il segno che la comunità ha da lavorare sempre più e sempre meglio per essere una vera comunità e non solo una cozzaglia di persone che vive lo stesso spazio. Ecco, mi stupisce tra i dati che vedo, insomma, che il servizio che viene maggiormente erogato non è l'assistenza economica, non sono i beni primari, il cibo, non è il dormire, ma è l'ascolto. Mi ha un po' stupito questo dato. Il dato dell'ascolto prevale su tutti, non dice che è l'unica cosa che si riesce a dare in tempo di crisi, ma tutto ciò che viene dato dopo e insieme a uno spazio di ascolto, e questo è quello che è il di più del servizio ai poveri ed è la carità vera, perché è farà sentire accolta la persona in quanto persona, non la sua indigenza soltanto. Ecco perché l'ascolto attraversa tutte le posizioni in cui si può servire alle povertà, Ed è un aspetto molto importante, un'abilità su cui il nostro volontariato ha investito in formazione, in dinamiche relazionali importanti. E allora, per ulteriori dettagli, poi vi rimandiamo alla Difesa del Popolo di domenica, dove troverete un ampio articolo di presentazione, ma prima ancora, venerdì, vi invitiamo a partecipare alla Via Crucis cittadina dalle ore 18, partendo dal Duomo e arrivando poi alla Basilica del Santo, e questa è un'occasione ulteriore anche di incontrare la città. Grazie, Suor Francesca, alla prossima. Grazie, buon cammino di Quaresima. Cantieri di Carità e Giustizia.